Coppie strane si muovono lentamente sui nostri marciapiedi. Sono formate da una persona anziana, ridotta palesemente al minimo dell'autosufficienza, e da un cittadino extracomunitario, spesso una donna, che gli regge il braccio. Le origini del fatto possono essere tante, ma quasi tutte possono stare comodamente fra più o meno questi presupposti. Da un lato, gli anziani, nonostante il carico di medicine che gli rifilano, sono sempre di più, sono sempre più anziani, sempre più abbandonati al loro destino dai loro cari, presi dalla febbre di vivere e soprattutto di vivere senza fastidi. Dall'altro, i cittadini extracomunitari sono senza lavoro, sono senza lavoro anche i comunitari e i cittadini italiani, a dire il vero, ma certi lavori, almeno fino ad ora, vabbè, per un motivo o per l'altro, li lasciano fare agli altri. I cittadini extracomunitari accettano dunque qualsiasi condizione pur di lavorare. I figli ricchi, o più semplicemente i figli che hanno messo le mani sulle fortune accumulate dai genitori, sono dunque ben disposti a spenderne una minima parte pur di rimanere tranquilli. Ghettizzare in casa anziché in ospizio, farci una figura migliore con gli amici e con la propria coscienza, e poter stare a debita distanza dai drammi della vecchiaia e dagli inestetismi della carne che va a male. Come un tempo per i figli della buona borghesia che volevano evitare il servizio militare, c'era la possibilità per legge dello Stato di pagarsi il cambio, ovvero di pagare la famiglia di un proletario perché lo sostituisse con un proprio figlio, così che a lasciarci la pelle, semmai, era lui. Così oggi, l'amore filiale e la cura degli anziani trovano un palliativo domestico in chi dalla fame, almeno fino a che ce l'ha, è reso paziente e docile. Che non tutto fili liscio all'interno di queste coppie improvvisate e formate dal ghiribizzo della storia più che da una ordinata concrescita culturale, è ovvio. Si parleranno poco, si capiranno ancora meno, hanno esigenze diverse, ritmi e movimenti diversi, abitudini diverse, vizi e virtù irrimediabilmente discordanti. Non è la prima volta dunque che la signora del terzo piano litiga con la sua partner, chiamiamola così. Urla disperata, povera donna, so che si riesce a muovere a malapena e anche con grande fatica, e allora accorro. Mi tocca di sentire le spiegazioni di tutte e due, che ovviamente non brillano per chiarezza. Soppeso la questione e mi lancio in una soluzione del problema. Il dramma è esploso per una questione di dosaggi di sonnifero. Da vent'anni, dietro consiglio del proprio medico, che Dio l'abbia in gloria, la signora, prima di coricarsi, la sera prende una pastiglia di un sedativo che ridurrebbe l'aggressività di un rinoceronte a quella di un chierichetto linfatico. La settimana scorsa, visto che lei gli aveva telefonato più volte chiedendogli visite di conforto, denunciando malattie immaginarie, il figlio aveva ordinato alla partner extracomunitaria di passare ad una dose di una pastiglia e mezza. Ciò aveva creato non pochi problemi alla signora, che si sentiva più intontita e ancor meno autosufficiente del solito. Lei voleva dunque ritornare alla dose di una pastiglia, ma la sua partner insisteva nel voler osservare i comandamenti di quel vero padrone di casa, che peraltro se ne stava ben lontano per i fatti suoi. Vista la natura del dramma, ho fatto ricorso alle mie migliori capacità persuasorie e sono passato alla catarsi risolutiva. Mia cara signora, più o meno le ho detto, lei è vittima di una cospirazione a me ben nota, quella fra la scienza e il potere per ridurre all'impotenza chi si ribella. Orsù dunque, se ne liberi, risorga libera e consapevole, ritorni padrona della sua vita e del triste destino che l'aspetta. L'hanno intossicata per anni nel corpo e nello spirito, si avvii sull'impervio ma piacevole cammino della rigenerazione e dell'autonomia morale, si faccia forza e soprattutto badi di più a se stessa, senza armeggiare contro la qui presente extracomunitaria, sorelle come siete, in conculcaggine e sfruttamento. I sedativi, o tutti insieme, o uno dopo l'altro, sorridendo sarcastica, li butti nel cesso. «E se non dormo?» singhiozzava fiduciosa la vecchina. «Prima si beva un bel bicchiere di vino, e poi, nell'uggia delle coltri, passi il suo tempo a maledirmi. Provi un po', butti via tutto e si fidi di me». Me ne tornai garrulo e soddisfatto agli amati studi, e per qualche giorno non ne seppi più nulla. L'altro ieri, elegante e abbronzato, appena tornato dalle Antille, incontro il figlio che stava per riandarsene, veloce. Gli dico, scusa, come sta tua madre? E lui mi racconta che nei giorni scorsi non aveva mancato di preoccuparlo, e pertanto aveva pregato il suo medico di visitarla per bene, e che in conseguenza, era stato deciso un cambiamento di rotta circa i sonniferi. Gli dico, bene, allora non le date più quella pastiglia per sera di quel sedativo per rinoceronti incattiviti? No, dice lui tradendo un lieve sorrisino divertito. Adesso gliene diamo due. L'apologo insegna circa il livello delle contraddizioni necessario alle svolte rivoluzionarie e circa la rapidità della successiva restaurazione, nonché circa la crudeltà dell'inevitabile repressione.